Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo ricordato tante volte come un nuovo paradigma energetico più sostenibile debba necessariamente passare da un utilizzo più consapevole dell'energia. Ma concretamente cosa vuol dire questa consapevolezza? Beh, vuol dire anzitutto poterli conoscere i consumi energetici, poterne seguire l'andamento e magari così valutare anche l'effetto dei propri comportamenti più o meno virtuosi. Senza questo tipo di informazioni la consapevolezza si trasforma in consigli più o meno banali, tipo ricordati di spegnere la luce quando esci dalla stanza, consiglio sicuramente utile ma non certo risolutivo. Ecco. Allora stasera parliamo proprio di monitoraggio, in particolare di un progetto che è nato al Politecnico di Torino già intorno al 2008, quindi in tempi non sospetti. Il progetto si chiama Wi-Fi for Energy ed è stato rilanciato però negli scorsi giorni da CSI Piemonte, che è il consorzio pubblico piemontese che gestisce gli aspetti informatici un po' per tutta la pubblica amministrazione. CSI Piemonte, che ha avuto il ruolo così di mettere appunto un sistema per spedire sulla nuvola, informaticamente parlando, i dati di monitoraggio. Ma andiamo con ordine, ci facciamo spiegare tutto da Gian Vincenzo Fracastoro, che è professore di fisica tecnica ambientale ed energy manager del Politecnico di Torino. Buonasera Fracastoro. Buonasera a lei. Allora, Wi-Fi for Energy, facciamo un po' di storia, come nasce questo progetto e a che scopo? Dunque, è un progetto regionale che è nato con l'idea di sviluppare dei sensori customizzati, cioè personalizzati, per il monitoraggio degli ambienti interni e quindi dei sensori che, senza bisogno di essere alimentati attraverso la rete, possano registrare i dati di temperatura, valori di illuminazione, umidità relativa, presenza delle persone, concentrazione dell'anidride carbonica negli spazi interni del Politecnico e inviare questi dati a una centralina di controllo da cui si possa rilevare lo stato dell'ambiente nelle varie aule del Politecnico, nei vari uffici. È chiaro che l'utilizzo di una informazione del genere è interessante in vista di un possibile risparmio energetico e per capire se le condizioni ambientali sono quelle previste. Per esempio, in una grande aula di 400 persone, noi abbiamo dei sistemi di ventilazione che sono tarati sulla presenza completa, come se ci fossero 400 persone, quando poi ce ne sono 50, è inutile sprecare tutta quell'aria, e con i sensori di CO2 riusciamo a sapere quante persone sono effettivamente all'interno della stanza e di conseguenza a regolare la portata di ventilazione in modo che sia quella adeguata a quel numero di persone, tanto per fare un esempio pratico. Un esempio pratico è tra l'altro molto interessante. Ecco, ma dal punto di vista concreto, poi qual è stata la difficoltà? Perché in fondo, insomma, sensori ce ne sono un po' per tutto ormai da tanto tempo. Certo, ma la difficoltà principale è che se sono dei sensori che sono a bordo di un dispositivo wireless, cioè non collegato alla rete, devono consumare poco, altrimenti l'autonomia dei sensori si limita troppo nel tempo, l'autonomia di questi dispositivi. Diciamo che con il passare del tempo abbiamo individuato delle piattaforme e dei sensori che permettessero di dare un'autonomia dell'ordine di qualche anno addirittura. Ecco, immagino che poi qualche altra difficoltà magari ci possa essere fra protocolli di comunicazione, questioni di sicurezza, far viaggiare i dati in modo tale che li vedano le persone giuste appoggiandosi di volta in volta su delle reti wifi che sono quelle che sono. Immagino, insomma, tutte queste difficoltà. Io però vorrei andare sui risultati, su quello che è stato in un certo senso il feedback che avete raccolto, perché voi avete disseminato il Politecnico di sensori, raccogliete questi dati ma li convogliate tutti insieme a tutti gli altri dati di consumo energetico in una sorta di control room, cioè questo cruscotto energetico di cui si parla, e abbiamo anche noi parlato di altre volte. Io voglio capire voi poi che cosa ve ne fate. Dunque, questi dati, innanzitutto alla fine di questa catena ci deve essere una persona dotata di una testa pensante, perché non si può pensare di automatizzare tutto. Chi sta in questo control room, che noi abbiamo chiamato Living Lab, ha la possibilità di vedere quello che succede in tutti i vari settori del Politecnico, e non soltanto lui ma anche per esempio i responsabili dei vari dipartimenti o delle varie aree dell'amministrazione centrale possono vedere quelli che sono i consumi e la situazione ambientale all'interno delle proprie strutture. Questo gli permette... Quindi diciamo che l'amministratore vede, per quanto concerne il proprio centro di costo, quali sono i consumi in tempo reale. Esatto, e può rilevare delle anomalie, degli sprechi, delle perdite d'acqua, perché i sensori non sono soltanto di tipo energetico, ma abbiamo anche dei normali contatori dell'acqua che sono stati collegati a questa rete. Ci sono dei contatori elettrici, contatori di calore, ci sono i misuratori dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. Cioè, lo scopo è quello di concentrare in un unico punto fisico tutte le informazioni e cercare da queste di ricavare delle indicazioni anche per le varie attività di retrofit, di ristrutturazione, di sostituzione di componenti obsoleti, a cominciare dalle finestre per esempio dei nostri dipartimenti, che risalgono al 1958, quindi sono di ferro su ferro, ferro senza battuto, vetro semplice. Ferro battuto e vetro con le bolle, come quello che si trova nei vecchi castelli. Quelli con le bolle proprio no, perché sarebbero pregiati, bisogna venderli a caro prezzo. Va bene, senta, un'altra cosa interessante è il fatto che poi si è generata un'ondata di informazioni. Sì, devo dire che quando c'è stato il 17 febbraio il Millumino di Meno Day, noi abbiamo partecipato con un'iniziativa in cui avevamo messo su tutti i monitor sparsi per il Politecnico, nei corridoi, la previsione del consumo di quel giorno e in tempo reale l'effettivo consumo. Dal confronto a questi due dati è nata una specie di caccia al kilowattora e tutto il personale, studenti inclusi, si sono attivati per cercare di limitare i consumi. Alla fine della giornata abbiamo risparmiato circa 5.500 kilowattora, che sono tutto sommato un migliaio di euro, visto quello Niente che male, costa. Insomma, purtroppo è lo stipendio di un ricercatore di un mese in questo paese, purtroppo. Sì. Grazie Gian Vincenzo Fracastoro. Grazie a lei, buona serata. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, buona serata.